9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come già si dice nell'anteprima, già qualcosina ci scrivete su Twitter con l'hashtag 9 in punto. Oggi parliamo di lavoro, per chi ce l'ha questo lavoro, ma non solo, insomma, per chi vive un lavoro precario, poco stabile o magari è a partita IVA, è un lavoratore autonomo, ossia quanto tempo fuori da quello che dovrebbe essere l'orario di lavoro dedichiamo al lavoro stesso. C'è una ricerca di qualche tempo fa realizzata da Good Technology che indica come l'80% delle persone, degli americani in questo caso, continua a lavorare dopo che ha lasciato l'ufficio. E questo perché? Perché siamo iperconnessi. Abbiamo telefoni cellulari, tablet, computer a disposizione e dunque il 57% degli americani controlla le email di lavoro mentre è con la famiglia, durante il tempo libero. Il 38% controlla le email mentre è a tavola, a cena. Una questione che riguarda, come si diceva naturalmente, chi lavora in azienda, e su questo in alcune parti d'Europa si sta ragionando. In Germania addirittura c'è chi sta proponendo una legge per vietare che l'azienda ti contatti dopo un certo orario via email o appunto via telefono, ma riguarda moltissimo naturalmente chi non se lo può permettere di avere regole interne aziendali, ossia i lavoratori autonomi. Tra questi ovviamente tantissimi giovani, abbiamo visto i dati del fine settimana della CGA di Mestre che indicano che il numero di partite IVA tra i giovani sono aumentate dell'8,1%, parliamo dei giovani sotto i 35 anni. Quindi un ulteriore, se vogliamo aggiungere anche questo, un ulteriore elemento di iniquità generazionale. Un elemento di iniquità generazionale che si aggiunge, magari parleremo anche di questo, anzi ne parleremo più avanti, perché c'è un dato che ci ha colpito molto oggi e sul quale abbiamo deciso di fare un piccolo approfondimento all'interno di 9 in punto. Un dato che è l'apertura del Wall Street Journal Europe di oggi, che indica che un italiano nato nel 1970 pagherà nel corso della sua vita, dal 1970 in avanti naturalmente, però il 1970 come anno di riferimento, pagherà nella sua vita il 50% in più di tasse di un italiano nato nel 1952. Questo, insomma, altro elemento di iniquità. Però partiamo da questo che è il tema. Ci scrive già un ascoltatore su Twitter: la puntata di oggi è praticamente su di me, 31 anni, da 6 partita IVA, iperconnesso e troppo spesso per lavoro. Luciano Pero, docente di sistemi organizzativi al Politecnico di Milano, buongiorno. Tonino Cantelmi, docente di psichiatria all'Università Gregoriana, tra le prime persone in Italia, forse il primo ad occuparsi di dipendenza da internet, perché c'è anche un aspetto di dipendenza. Buongiorno Cantelmi. No. Buongiorno a Fabio Chiusi, giornalista e blogger. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te. Ne ha scritto sul suo blog, ma ha fatto anche un esperimento di disconnessione per qualche settimana da quelli che sono i suoi principali strumenti di lavoro, ossia i social network, e vedremo che cosa ne è emerso. Inizierei però da Luciano Pero, questo confine tra vita lavorativa e vita personale, tempo libero, si fa sempre più labile. È così? Sì, il confine fra vita lavorativa e vita personale è già un po', per la verità, che comincia a essere, come dire, eroso. Noi eravamo abituati all'antica società industriale senza collegamenti, in cui l'entrata e l'uscita dalla fabbrica o dall'ufficio significava entrare nel lavoro oppure ritornare nella vita. È già un po', però oggi il fenomeno è molto evidente, no? di passaggio da uno all'altro, questo confine è sempre più labile, però è già un po' che questo succede. Io distingo brevissimamente tre fasi in questo, diciamo, abbattimento del confine. La prima è successa alla fine degli anni 80, primi anni 90, quando si è cominciato a poter mandare dei file con una certa facilità, erano le prime poste elettroniche. All'epoca si parlò di telelavoro e si immaginò che alcune persone potessero lavorare completamente da casa, quindi abolire un pochino l'ufficio. Quella cosa poi non andò molto avanti, perché in realtà le persone, come sappiamo, spesso lavorano volentieri da casa, ma vogliono ogni tanto andare anche in ufficio, uscire da casa, non è bello una vita completamente passata a casa. Poi ci fu la seconda fase, quando comparvero nei primi anni 90, a metà degli anni 90, i telefonini, quelli solo, diciamo, voce, no? E lì la cosa cominciò a diventare più grossa, perché si poté da allora cominciare a chiedere, a comunicare direttamente con tutti i lavoratori, ma in particolare furono toccati i manager, i tecnici, gli specialisti, i professional, a cui in qualsiasi momento si cominciò a telefonare per chiedere consigli su che fare, eccetera. E poi col Web 2.2, la terza fase, secondo me, nel 2000, in quest'ultimo decennio, e le cose sono diventate molto grosse, perché con i tablet, ma anche con i PC, si può accedere a reti aziendali, si può accedere a internet, si ha disponibili a distanza non solo la voce e anche con le teleconferenze, anche il viso, diciamo, ci si può vedere, ma si dispongono direttamente di grandi basi dati, quindi è possibile un'integrazione molto forte. E quindi oggi c'è una pressione enorme, praticamente non c'è figura professionale che non sia toccata oggi da questo tipo di possibilità di agganciare al lavoro nella vita normale. Attenzione che vale anche la rovescia, Cioè la gente nella pausa caffè può telefonare a casa col telefonino, può andare su internet, qualcuno anche durante il lavoro, non si dovrebbe, ma quindi vale anche la rovescia, non c'è solo dal lavoro che invade la vita, ma anche un pochino la vita che entra maggiormente all'interno del lavoro. Sono quindi dinamiche di cambiamento fortissime, ci scrive anche Ruggero sempre via Twitter. Vi ricordo anche il numero di telefono per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Ci scrive Ruggero: da dipendente ero molto più rilassato, da 24 mesi partita IVA, ho 30 anni, ne ho guadagnato in soddisfazione, ma faccio il carbonaro. Fabio Chiusi, l'esperimento di disconnessione dai social network, che sono una componente centrale del tuo lavoro, facendo oltre che il giornalista, collaborando per una serie di testate, tra cui l'Espresso, c'è molto, perché sei un blogger, lavori con la rete. Come sono state queste quattro settimane, se non sbaglio, più o meno? Sì, più o meno, sì, 23 giorni, se non sbaglio. È stata una specie di diario del tossicomane. No, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza assolutamente, diciamo, per me è stato un modo per cercare di trovare la chiarezza mentale, ecco, la lucidità e il distacco che mi serviva per cercare di scrivere una cosa che avevo in mente da un po' di tempo. E già il fatto che mi sia sentito in dovere, diciamo, di staccare dai social media, che, come dici tu, hanno un ruolo, diciamo, abbastanza importante nella mia attività professionale di tutti i giorni, nonché nella mia vita sociale e anche, diciamo, affettiva, quasi, insomma, con gli amici e tutto il resto. Sì, è stato importante cercare di staccare per un po' e riguadagnare questa chiarezza. Il problema è che quello che impari è che non si impara molto. Con la disconnessione, diciamo, non si risolve fondamentalmente nulla, no? Perché poi non è che uno può ritorna dopo 23 giorni, sì, magari ha capito certe cose, no? Hai fatto certi pensieri, ti sei riuscito ad allontanare per un po', però poi dopo non è che uno li può sbattere fuori dalla porta, no? Quindi la questione è imparare a convivere con questo tipo di tecnologie e fare in modo che queste tecnologie ci mantengano umani, no? Io penso a un progetto dell'Europa di cui ho scritto recentemente da Commissione Europea, si chiama The On Life Initiative, e stanno iniziando una riflessione che è coordinata tra l'altro da un filosofo italiano. Sono 13 personaggi, diciamo, di peso dei rispettivi settori, dalla neuroscienza alla filosofia alla psicologia cognitiva, no? E tutto questo avviene all'interno di una riflessione sull'agenda digitale. E questo è veramente interessante, perché da noi giustamente si parla di infrastrutture, no? E tutto questo, però voglio dire, uno dei cardini è capire come fare in modo che l'iperconnessione ci faccia restare umani, e questa cosa deve avere, e quali conseguenze questo può avere in termini di policy making. E qui è naturalmente il lavoro. Naturalmente, Fabio, ti voglio portare anche su un'altra questione, perché è quello che abbiamo accennato poco fa, no? C'è un numero sempre maggiore, i dati sono di questo fine settimana, di partite IVA tra i giovani, lavoratori autonomi. Alcuni ci stanno scrivendo, naturalmente, ci dicono: guarda che, insomma, per me è esattamente così, sono una partita IVA, un lavoratore autonomo, sono giovane, per me è esattamente così. Allora, tu lo sei a tutti gli effetti, perché sei un freelance. Ecco, come questa iperconnessione, che danni, aperte virgolette, cagiona ad un libero professionista? Beh, un libero professionista, l'iperconnessione secondo me fa... Diciamo che ha distrutto il concetto di tempo libero, questa è un po' la questione. Si è parlato molto di fine del lavoro, no? I teorici dell'automazione avevano parlato molto del fatto che le macchine ci avrebbero liberato, no? dal peso di lavori ripetitivi, ma non solo, no? Gradualmente, insomma, ci avrebbero trasformato in una sorta di Atene digitale, no? Si è letto queste teorie per cui, insomma, alla fin fine noi avremmo lavorato meno, meglio, con più qualità. Beh, in realtà le cose non stanno andando così. Noi abbiamo i salari tra i più bassi d'Europa, e il lavoro vale sempre meno, diciamo, lavoriamo molto, anche come paese. In Italia il monte di ore lavorate all'anno è enorme, e io non credo che all'interno di quel monte di lavoro vengano considerate tutte le mail a cui si risponde alle 11 di sera, tutte le domeniche in cui si lavora, che poi per un giornalista è normale, voglio dire, no? Uno lo sa che, sì, scegliendo questa strada, alla fin fine la vita in qualche maniera la sacrifica. Però non è normale che questa cosa non sia retribuita, secondo me. Francesco ci chiama da Roma, poi andremo da Cantelmi per capire invece l'aspetto patologico di tutto ciò. Francesco ci chiama da Roma, sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Beh, guardi, in tempi moderni del grande Charlie Chaplin era l'operaio ad essere spiato, vessato, osservato con una telecamera persino quando andava a fare i bisogni, no? Adesso la situazione si è ribaltata. Questi strumenti, parlo del telefonino, parlo delle email, parlo di tutto ciò che viaggia attraverso l'informatica e le reti telematiche, si sono trasformate in uno strumento di controllo del libero professionista. È come se i miei committenti, io faccio l'architetto, ma la mia situazione è simile a quella di tanti altri che operano anche in settori diversi dal mio, è come se i miei committenti fossero diventati i miei grandi fratelli. Mi mandano messaggi, email, anche alle 2 di notte. Questo, oltre a portare nocumento al tempo libero, nuoce gravemente anche alla mia attività, perché ormai, e non solo io, passiamo più tempo connessi a rispondere, va bene, e a diciamo a ottemperare alle comunicazioni, che a fare il nostro lavoro tecnico pratico di esecuzione vera e propria. Non so se sono stato sì, chiaro. Sì, assolutamente chiarissimo. Beh, è molto interessante come valutazione. Tonino Cantelmi, quanto c'è di patologia in tutto questo, e quanto invece di una pressione di un mondo che ci costringe a fare questo? Sì, diciamo che questa società incessante è sempre attiva ed è sempre più incapace di staccare la spina. Infatti la sindrome che affligge i workaholic del terzo millennio è proprio questa incapacità allo switch off, allo spegnere. Però dobbiamo dire che c'è anche un sottile piacere, cioè nel senso che poi è il meccanismo della dipendenza, nel senso che se da un lato è vero che le macchine ci schiavizzano, in qualche modo il lavoro travalica i confini dello spazio ufficio, e anche, o del feriale del festivo, del giorno della notte, o insomma supera tutti questi limiti, in realtà poi c'è anche un sottile piacere per noi, che è questo piacere di sentirci al centro, di non poter tollerare che il mondo vada avanti senza di noi, la percezione che noi abbiamo in qualche modo di dover stare online, perché lì è la vita. E quando siamo al lavoro, al contrario, infatti noi generiamo il maggior scarico di materiale pornografico durante l'ora di lavoro, il che vuol dire che in qualche modo le due dimensioni si sono ormai totalmente sovrapposte, senza più confini. Cosa è patologico e cosa invece è normale? Difficile dirlo, perché di fatto non possiamo fare un digital detox permanente, come lo possiamo fare per qualche settimana, ma poi comunque torneremo sempre al contatto con la rete, con la tecnologia digitale. E dunque, come diceva prima qualcuno, dobbiamo imparare a convivere con questo? Sì, purché questo non ci impedisca, allora diventa patologico, di guardare in faccia qualcuno, di uscire con qualcun altro, di parlare, di mantenere una minima capacità di relazione face to face. Luciano Pero, mi sembrava interessante quello che ci diceva Francesco. Insomma, Luciano Pero, oltre ad insegnare al Politecnico di Milano, è uno che si occupa nella vita esattamente di rendere più efficienti le aziende. Ci diceva Francesco, in realtà tutto questo finisce per renderci meno efficienti, per farci lavorare peggio, specie i professionisti. Sì, sì, sì, quello, il fenomeno descritto è evidentissimo, ma direi è forte soprattutto nel caso italiano. Io penso che ci vogliono delle regole, bisogna regolare, questo è un fenomeno nuovissimo, non è mai esistito prima, è una nuova tecnologia che impatta e porta nuove forme sociali, ci vogliono nuove regole, bisogna darsi delle nuove regole di tipo organizzativo, forse anche legislativo, e ben venga l'intervento europeo. Nel darsi nuove regole bisogna tener conto di due cose, secondo me. Uno è una deviazione tipicamente italiana. Noi italiani, anche nell'organizzazione, la piccola impresa, la realtà che descrivevano dei professionisti, è molto evidente adesso, cioè noi abbiamo l'abitudine, come dire, di correre sempre dietro al pallone, no? Ci viene in mente una cosa, subito telefonare all'architetto, all'avvocato. Siamo proprio molto individualisti come popolo, molto, molto artigiani, no? E dovremmo imparare a essere un pochino più ordinati. Ci vuole più ordine nelle imprese, più ordine nel lavoro, più ordine nel rapporto con i professionisti. Quindi nel fare le regole bisogna tener conto di questa mania tutta italiana di telefonarci sempre. Non a caso siamo il paese che ha il più alto numero di telefonini pro capite, no? Qui appena si può si parla direttamente. E l'altro punto invece sono regole generali. Ad esempio in Germania, non so se sapete, ci sono già alcune imprese, ad esempio in Volkswagen, adesso io non ho notizie precise, ma sembra che dopo le 20 alla sera è fatto divieto di telefonare ai manager, ai tecnici, si richiama il mattino dopo, cioè si mette lì il problema e si risolve il mattino dopo. Sì. Quindi anche Deutsche Telekom, tra l'altro, ha invitato i dipendenti a non fare telefonate di lavoro o rispondere alle email nel tempo libero in vacanza, quindi evidentemente insomma. Sì, sì, sì. Io credo che bisogna, ovviamente la compenetrazione c'è e va benissimo, però bisogna stabilire delle regole che salvano il tempo libero, che salvano la vacanza, che salvano degli spazi. Quindi sono regole di carattere temporale e o di urgenza, a seconda dei problemi. Non si può telefonare a mezzanotte uno per una stupidata, ad esempio le cose che faceva prima, evidentemente si telefona il giorno dopo, ci si organizza meglio, quindi ci devono essere regole di urgenza e regole temporali di non invasione della vita personale. 9 in punto. 800 24 00 24, per intervenire in diretta sentiamo Giampaolo che ci chiama da Milano, buongiorno. Prego. Sono un imprenditore di 75 anni che lavora ancora 10 ore al giorno e si fa 30.000 chilometri per il mondo per portare a casa il lavoro per la mia azienda, e trovo che tutto questo, invece, lungi dall'essere un difetto e un abuso, perché mette insieme la vita privata con la vita del lavoro, che è sempre stato così nella nostra civiltà occidentale, non è mai stato diverso, sia invece un arricchimento. Io mi sento arricchito dal fatto di avere un contatto permanente con il mio mondo, e questo non mi disturba nei miei rapporti con gli uguali, con i miei figli, con i miei nipoti, tanti sei, anzi mi arricchisce, e trovo assolutamente assurdo che si voglia mettere delle regole a tutto, un'idea sovietica in cui bisogna che tutto sia regolamentato, che il lavoro sia considerato un lavoro a gettone. Certo che uno che fa il call center non verrà chiamato alle 2 di notte, che cosa che non chiamano a fare alle 2 di notte per sostituire un altro, succederà una volta ogni 10 anni, ma quello che fa un lavoro importante, un lavoro che sente suo, non dovrebbe avere nessuna di queste preoccupazioni. È un fatto suo personale, che diavolo c'entra la regolamentazione della Germania piuttosto che ci sono stupidaggini da filosofi da 4 soldi, che non sopporto neanche sentire. Scusatemi, ma la schiettezza ci piace, Giampaolo, la schiettezza ci piace. Luciano Pero è stato chiamato in causa, lei mi sembra, filosofo da 4 soldi. No, ma io... Poi sono uno che si comporta esattamente come il signore che ha appena telefonato, assolutamente, io ho tutta la simpatia per lui, io parlavo di regole in senso di appunto generale, per la generalità della popolazione, poi ovviamente i lavori manageriali, imprenditoriali di alto livello o anche quelli politici ad esempio, no? Non hanno limiti, nel senso che ognuno entra in contatto come vuole, fra l'altro faccio notare che spesso i top manager, come gli alti livelli politici, danno delle regole ai propri collaboratori, cioè anche loro in realtà, nella regola comune, per regole si intende anche il modo molto corrente di collaborare nel team, no? Ecco, una regola potrebbe essere anche semplicemente quella che non è che tutti chiamano tutti anche alle 2 del mattino per dire qualsiasi cosa, che c'è un team, il team di lavoro che filtra le priorità e i tempi, i modi con cui fare. Spesso la cosa migliore, secondo me, la prima regola infatti sarebbe questa, cioè che ogni team di lavoro, di gestione, di management e quant'altro, e ce ne sono tantissimi ormai, si autoregola, no? Trova quelle regole di funzionamento che danno il meglio all'impresa, al lavoro, eccetera, consentendo però la vita personale, perché appunto ci sono persone come il signore che ha chiamato, come me, che sono totalmente dedite al lavoro e gli va bene essere chiamati in qualsiasi momento, e ci sono invece persone che magari non lo gradiscono o non è possibile perché hanno problemi di salute o hanno, sì, piccoli. Oppure ci sono persone, Fabio Chiusi, che sono costrette nella sostanza adesso. No, perché poi il punto è questo, no? Assolutamente, ma io infatti mi chiedo come ci sia qualche tipo di dibattito a livello sociologico, sociale, sulle conseguenze sociali di questa cosa, no, dell'iperconnessione, ma mi chiedo come sia possibile che sia completamente assente la riflessione su che cosa significhi questo in termini di lavoro, no? E in termini di salute, cioè io voglio dire, se veramente abbiamo dei centri che studiano la dipendenza da internet, no? Se dobbiamo veramente prendere sul serio questo tipo di discorso, facciamo finta che io riesca a prenderlo sul serio, no? Io non ci credo particolarmente, però facciamo che io riesca a prenderlo sul serio. È possibile che se veramente siamo costretti a lavorare 16 ore al giorno davanti al monitor iperconnessi, no? O comunque con uno smartphone, questa cosa ha delle conseguenze sulla salute? È possibile che nessuno si sia sognato di dire, beh, ma aspetta, forse i nostri collaboratori lavorano 20 ore al giorno davanti al monitor, forse è il caso di provare a pensare che conseguenze questa cosa sta avendo sulla loro salute, forse è il caso di pensare se questa cosa deve essere ricompensata in un altro modo, in busta paga, cioè voglio dire, cioè, tutta questa riflessione è completamente assente, e non soltanto da parte del datore di lavoro, ma anche dalla parte di chi lo difende il lavoro, no? Cioè, pare come che anche i sindacati, anche chi si occupa del lavoro, sia completamente fermo a un dibattito che non ha nulla a che vedere con quelli che sono questo, per esempio, un reale problema della nostra era, no? Cantelmi, la valutazione di Fabio Chiusi da questo punto di vista non è male, dice, insomma, se esiste davvero una dipendenza, lui non ci crede, lei sarà di opinione diversa, suppongo bene, insomma, visto che si occupa esattamente di questo, un pezzo importante del suo lavoro, se c'è veramente una dipendenza, Abbiamo parlato poco fa con Alessandro Milan, anzi se volete andate sul sito www.radio24.it e riascoltatevi la puntata, abbiamo parlato di gioco, della dipendenza da gioco, se veramente c'è una dipendenza da internet e questa dipendenza viene stimolata dai datori di lavoro, insomma ragioniamo su una regolamentazione, come diceva Pero, no? Ma come dicevo prima, in realtà c'è un sottile piacere in tutto questo e quindi... Sì, grazie, mi scusi, c'è un sottile piacere anche nel giocare compulsivamente, appunto, e persino nel drogarsi, quindi insomma, non so come dire, so che sto esagerando, la sto spingendo un po' forte, però il punto è quello. È proprio così, questo è il meccanismo della dipendenza, cioè per cui noi, è chiaro che in questa epoca diventiamo dipendenti da comportamenti, questo ci sorprende, comportamenti che non possiamo eliminare completamente dalla nostra vita, come per esempio la dipendenza sessuale o anche la dipendenza da gioco o la dipendenza dalla tecnologia digitale. E queste dipendenze comportamentali sono straordinarie. E ora, che questo possa essere anche un pochino sfruttato da un sistema organizzato di tipo lavorativo, beh, questo è possibile. Però quando poi questo diventa eccessivo e va a rovinare la nostra capacità di relazionarci con gli altri, in effetti entriamo nella patologia. E assicuro che esiste in questo senso, lo pensano un po' gli psichiatri del mondo, sarà inserito nel prossimo DSM-5, che è la Bibbia degli psichiatri. Ma insomma, al di là di tutto questo, c'è da dire che il tema della dipendenza dalla tecnologia è un tema sul quale ci dobbiamo interrogare a tutti i livelli, ma per esempio prendete una sola cosa, una sola osservazione, la velocità, cioè tutto è estremamente più veloce, è assolutamente vero che dagli Stati Uniti alle 2 di notte in Italia inviano mail o comunicazioni di ogni tipo a chi lavora con l'estero, per esempio, è assolutamente vero che ci si attende una risposta in tempi molto veloci, ed è assolutamente vero che la velocità è diventata un qualcosa di straordinario. Allora, questo ha delle conseguenze, ma certo che ha delle conseguenze, la velocità è diventata una sorta di imperativo, insomma ha ragione, dobbiamo riflettere anche sulle conseguenze nelle organizzazioni lavorative che sfruttano un pochino la tendenza alla dipendenza tecnologica, magari vietano Facebook ai loro dipendenti, ma poi non vietano ai loro dipendenti per l'appunto la possibilità di essere sfruttati al di fuori del lavoro. E non solo i dipendenti, come si diceva, perché si ragionava anche, tra l'altro ci scrivono un ascoltatore, Gabriele, dice le partite IVA giovani sono finte, dipendenti in realtà partita IVA, è un tema che abbiamo affrontato, o spesso l'abbiamo affrontato anche un paio di settimane fa quando ci siamo occupati proprio esattamente di partite IVA con un libro appena uscito, riguarda soprattutto in special modo, in maniera più forte, i lavoratori autonomi. Voglio sentire Arrigo che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, salve. Allora, io non sono né un giovane, però la partita IVA, vera. Uno dei due requisiti, prego. Non sono giovane, ma la partita IVA vera, perché mi sono dovuto reinventare un lavoro una decina d'anni fa, perché da dipendente mi hanno bellamente messo per strada e adesso faccio l'agente di commercio grazie a persone che hanno avuto fiducia in me, e però mi ritrovo anch'io in questo contesto, no? Per cui questa idea del perennemente connesso, che ripeto, io non sono uno dei patiti, non ho lo smartphone, ho il telefonino, non ho lo smartphone, cerco di rimandare il più possibile l'acquisto di un iPad, ma prima o poi dovrò farlo, però sicuramente ho questa patologia, perché se non ti mandano mail, oddio, non ti mandano mail, ti mandano mail, ti invadono di mail, anzi, beccato proprio un virus ieri sera e questa mattina ho dovuto voltare il computer, adesso mi sento praticamente nudo, senza armi, nudo. Perché, questi virus strani della Polizia di Stato, mio è Polizia Penitenziaria, bloccano il computer, sembra che ce ne siano in giro una marea, e per cui c'è questa doppia visione, no? Se ti telefonano, oddio, ti telefono, ci sarà in questo momento, poi che non si vende praticamente nulla, se ti telefono è solo per qualche rogna, se non ti chiamano, oddio, non ti chiamano. Per cui sei sempre perennemente in questa condizione. Sì, ci sono anche alcune analisi, Arrigo, sul rischio stress che deriva da questa condizione. Ranieri ci chiama da Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, ma intanto bisogna fare alcuni, mi dispiace sentito, alcuni distingo tra le dipendenze e quelle che sono i social network e le mail. Io vorrei dire solo questo, io ho 48 anni, ho lavorato tanto tempo in ambiente aziendale, lavoro ancora oggi, sia come professionista, libera professione, qui come dipendente. E ho subito il pressing da mail, io lo chiamo così, quindi mail a tutte le ore del giorno e della notte. Ho subito e spenga la radio, però, che sennò sentiamo. La radio è proprio spenta, Un eco strano. Prego, prego. Pronto, adesso va meglio? Sì, meglio, no, sì. Meglio per voi. Dicevo, io ho subito pressing da mail in maniera anche pesante, perché è il mestiere che faccio io, come tutti, poi riceviamo mail a tutte le ore del giorno e della notte. Vorrei fare una provocazione, aveva ragione l'architetto prima, al momento che io parlo solo al telefono tutto il giorno, rispondo mail agli orari più improbabili, io il mio lavoro non lo faccio più. Quando non lo faccio più creo un danno a me stesso, se faccio libera professione, e all'azienda dove lavoro, all'ambiente dove lavoro. Quindi io vorrei invitare tutti a uscire fuori da questa cosa e rifare a fare un altro ragionamento. Mi hai mandato una mail alle 2 di notte, io ti malvendo. Vorrei capire perché me l'hai mandata alle 2 di notte, se era una questione di vita o di morte, oppure se non me la potevi mandare alle 8 del mattino. Tutto qui, quello che io vorrei cercare di lanciare come messaggio. E di instillare nella testa di chi manda le mail alle 2 di notte e poi magari quando ti svegli la mattina alle 7, alle 6:30, alle 6, ti senti in dovere di rispondere. 9 in punto. Ci scrive Luca su Twitter, sono over 50 e amo la tecnologia. Da oggi, evidentemente in seguito a questa puntata, stacco lo smartphone dal web per lavorare di più con la testa. Sentiamo anche Ersilio che ci chiama da Rovigo, buongiorno. Buongiorno Ersilio. Pronto? No, evidentemente lo abbiamo perso. C'è anche una questione, come già sottolineava l'ascoltatore poco fa, di regole interne aziendali. Si citavano i casi tedeschi, appunto Volkswagen è prevista la pausa BlackBerry, la E.ON ha messo al bando le email dopo le 20, addirittura Deutsche Telekom ha invitato i suoi dipendenti a non fare telefonate di lavoro o rispondere alle email nel tempo libero in vacanza, e anche Puma e BMW hanno preso qualche provvedimento in questo senso. Sentiamo Mario dalla provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno. Prego. Salve. Niente, io volevo dire che il problema di dipendenza da lavoro c'è, ed è anche peggiorato dalle connessioni telematiche. Io stesso ho vissuto, prima di imparare a gestirle le connessioni, due tipi di problematiche: una tachicardia d'ansia, perché avevo continuo i pressing di mail e di telefonate per terminare alcuni lavori, e un altro sovraccarico da continui contatti, ho perso il controllo dell'automobile con un incidente. Ma lei è un lavoratore autonomo? Mario, lei è un lavoratore autonomo, per curiosità? Sono libero professionista. Libero professionista, un ingegnere. E ha perso il controllo dell'auto perché stava controllando cosa? Le email? Avevo il tablet sul sedile a fianco ed ero al telefono con una persona che mi chiedeva di controllare delle cose. Dopo questa esperienza comunque è cambiata la mia vita, perché ho deciso che il telefono si accende quando si lavora, si spegne quando non si lavora, e bisogna lavorare mai più di 10 ore al giorno, ma è stata una mia scelta. Credo che delle regole imposte da fuori possano mettere giudizio a persone che comunque escono, ma al contempo sono contente di fare iperlavoro. E ci dica una cosa, Mario, ha avuto problemi sul suo lavoro dopo aver preso questa decisione? Ho perso alcuni clienti che erano poi quelli più pressanti, ho deciso di fare una selezione della mia clientela, e questo mi è costato a livello economico, però la cosa mia vita è migliorata. Le scelte che comunque bisogna fare. Grazie Mario, sentiamo anche Gianni che ci chiama da Foggia, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Volevo riferirmi alla quantità di comunicazione che si riceve. A mio avviso la quantità è anche eccedente l'esigenza, perché avendo mezzi più efficaci per comunicare, in realtà poi si va molto oltre i contenuti. Quindi, come dire, noi subiamo Molto, Gianni, o molto al di sotto dei contenuti. Forse al di sotto dei contenuti. E siamo quindi molto disorientati da questo, perché poi per andare sulla centralità dei problemi ovviamente ci disperdiamo e perdiamo tempo, insomma, ecco, questo mi sembra che sia anche un elemento. C'è un abuso dell'uso dello strumento della comunicazione, insomma. Paolo ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io mi occupo professionalmente di nuovi media. Credo che questo tipo di stigmatizzazione dello strumento sia singolare, cioè abuso c'è di eventualmente di lavoro precario, abuso c'è eventualmente di parte dei genitori che non seguono i bambini e li fanno giocare troppo con la PlayStation o con internet. Lo strumento in sé è quello che ha cambiato il mondo dal 96 in poi. Mi sembra un po', come dire, uno scambio tra mezzo e fine. Oppure tra il mezzo, tra lo strumento e chi lo utilizza, giustamente. Guardi, il problema è quello, e mi sembra che lo abbiamo sottolineato. Allora, siamo quasi in chiusura, e però io vorrei riprendere il filo di quello che dicevamo all'inizio. Cioè, si diceva che questo è un problema che riguarda certamente i lavoratori dipendenti, ed è un problema, da alcuni è sentito come un problema, da altri no, come le vostre telefonate hanno testimoniato, ma riguarda moltissimo partite IVA, i lavoratori autonomi soprattutto, e riguarda naturalmente a maggior ragione quelli che, come lavoratori autonomi, a volte magari con monocommittenza si affacciano al mercato del lavoro, i giovani. Abbiamo visto i dati della CGA di Mestre di qualche giorno fa. È un tema che coinvolge in parte quello dell'iniquità di un sistema che in questo caso va a colpire, anche in termini di orario di lavoro, soprattutto una certa fascia della popolazione, nella fattispecie i giovani. Però a proposito di iniquità generazionale, c'è un dato che ci ha colpito oggi e sul quale in chiusura di questa trasmissione vogliamo tornare, ed è un dato diffuso oggi, anzi addirittura l'apertura del Wall Street Journal Europe, ed è una ricerca dell'Università di Verona insieme alla Banca d'Italia. Saluto Paolo Pertile, ricercatore dell'Università di Verona, che è stato così cortese, lo abbiamo raggiunto stamattina e ha detto sì, vengo, insomma, non c'è problema, buongiorno. Buongiorno. Da questa ricerca, il dato citato dal Wall Street Journal dice che un italiano nato nel 1970 pagherà nel corso della sua vita il 50% in più di tasse rispetto a un italiano nato nel 52. Quindi 18 anni di differenza fanno un 50% in più di tasse. Questa ricerca l'avete fatta voi, ce lo spieghi. Sì, il nostro obiettivo era quello di capire che tipo di impatto in termini di equità intergenerazionale abbiano avuto le politiche di bilancio intraprese tra il 1990 e il 2008, quindi la fase di risanamento in particolare degli anni 90, quindi non ci sono dentro gli effetti delle più recenti riforme. E quello che abbiamo fatto è stato andare a vedere tutte le principali voci di entrata e di spesa dal settore pubblico che incidono in modo diverso alle varie età sulla vita dei cittadini. Per cui tipicamente un individuo giovane beneficia dei trasferimenti legati all'istruzione, poi andando avanti con l'età viene pagato più in termini di imposta personale sul reddito e così via, poi entra in gioco la sanità e così via. E andiamo a vedere su tutto l'arco di vita come questo incida. E abbiamo cercato di vedere le differenze per le diverse generazioni e di sintetizzare questo numero appunto in una sorta di aliquota implicita. Cioè, immaginiamo un mondo in cui ci sia un'unica imposta sul reddito del ciclo di vita, appunto. E è significativo appunto il confronto che viene ripreso nel dato di sintesi che lei citava tra un individuo rappresentativo della coorte nata nel 1952 e il corrispondente nato 18 anni dopo, nel 1970. L'aliquota implicita è intorno al 17% per il nato nel 52 sale al 26% circa per il nato nel 70, da cui appunto fatto 100 il reddito sul ciclo di vita, un incremento di circa il 50%. Poi sono andati a vedere da dove venisse questa, questa differenza, e in realtà il gioco dipende molto, l'aspetto prevalente, di gran lunga prevalente, è quello della riforma delle pensioni. Cioè quello che ha pesato in sostanza, Pertile, essenzialmente e fondamentalmente il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo nel sistema pensionistico. Esattamente, il nato nel 1970 è rappresentativo di chi subisce sia il passaggio nel calcolo del beneficio pensionistico dal retributivo al contributivo, sia l'innalzamento dell'età pensionabile, e di conseguenza il 70 poi è rappresentativo anche di tutte le corti successive. Noi siamo andati anche a vedere poi le differenze eventuali tra il 1970 e le corti successive, e non c'è grossa differenza. E c'è anche una componente fiscale, però? Sì, il risultato tiene conto appunto di tutto, di tutte le componenti. Quello che fa la differenza poi, andando a vedere bene il numero, è le riforme pensionistiche. C'è stato per esempio, in buona parte, una componente significativa nel risanamento, è stata ottenuta proprio attraverso la componente fiscale, in particolare un incremento significativo, intorno al 25% dell'IRPEF, soprattutto attraverso mancati recuperi dell'inflazione, che è un sistema progressivo ovviamente determina il fiscal drag. Ma quella componente ha colpito in modo abbastanza simmetrico tutte le generazioni. Grazie a Paolo Pertile, Luciano Pero, Tonino Cantelmi e Fabio Chiusi per essere stati con noi. Noi chiudiamo qua 9 in punto. Mi prendo qualche secondo in più per ricordarvi una serie di cose. Naturalmente oggi siamo andati in onda in fase di silenzio elettorale. Si vota fino alle 15 e quindi alle 15 il silenzio elettorale finisce e Radio 24 partirà con una serie di speciali. Praticamente non vi abbandoneremo fino a notte tarda, e poi riprenderemo naturalmente domani mattina con Alessandro Milan e 24 Mattino. Mi ritroverete in uno speciale a partire dalle 9 fino alle 13 e continueremo ad andare avanti, perché poi nel pomeriggio di domani arriveranno anche i risultati delle regionali. Grazie nel frattempo a Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, le ragazze del centralino come sempre. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Dunque ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24, la passione si sente.